Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento di Radio 24 con la cronaca, le storie che non avete sentito altrove. Questa è l'Italia in controluce. Auto privata o mezzi pubblici, corsie preferenziali o piste ciclabili, pedaggi per entrare nei centri storici. Ognuna di queste possibilità condiziona il nostro modo di vivere e di spostarsi in città. Tocca ai sindaci e alle amministrazioni comunali scegliere in quale direzione andare. Ma c'è un progetto che potrebbe cambiare davvero la mobilità urbana, è quello dell'auto elettrica. Cristina Carpinelli ha fatto il punto partendo dalle esperienze del Nord Italia. Quando Edoardo Croci era assessore alla mobilità, trasporti e ambiente a Milano, successero alcune cose, altre non ebbero corretto svolgimento, altre ancora non furono praticamente messe in atto. Croci si dimise e molti di noi rimasero orfani di quel progetto strutturato e lungimirante che ci aveva addirittura fatto sperare in un reale, rapido cambiamento della qualità del traffico, dell'aria, della vita stessa di Milano. Le dimissioni di Croci hanno detto molto. L'assessore se ne andò perché ostacolato nei suoi tanti progetti, tra i quali estendere l'ecopassaggio a tutta la città, immettere nel mercato delle city car elettriche, abbassare di 2-3 gradi il riscaldamento degli stabili, accendere il riscaldamento un'ora dopo la mattina, spegnerlo un'ora prima la sera. Così orfani abbiamo dovuto continuare a confrontarci con la realtà dei fatti. Non tutto però sta andando storto. A Milano, ad esempio, ma anche a Brescia, tra pochi giorni si inaugurerà il piano di elettrificazione delle città. Ma chi ha guidato questa svolta? Una casa automobilistica, la Renault, e una società che gestisce l'energia elettrica, la A2A. Senza entrare nel merito della questione, prendiamo atto del cambiamento in corso, che ci sembra buono, perché le auto elettriche inquinano meno e fanno meno rumore. Il progetto di mobilità elettrica di Milano e Brescia prevede la costruzione di 270 colonnine di ricarica, 200 su Milano, 70 su Brescia. Ma come funziona? Quanto costa? Chi ha pagato? Come si struttura? E quante auto elettriche si prevede entreranno in circolo tra Milano e Brescia? Andrea Baracco è il direttore responsabile della comunicazione di Renault, cioè la casa automobilistica che ha messo a disposizione 60 macchine elettriche a noleggio per un anno a circa 500 euro al mese. Si struttura in un accordo a tre tra Renault, A2A e il Comune di Milano per favorire un discorso e mettere il primo gradino, diciamo, verso una mobilità a zero emissioni che passa attraverso l'uso di veicoli elettrici. 60 auto, no? Sono messe a disposizione tra Milano e Brescia? Sì. Sono poche? Sono poche, nel senso che parliamo di un progetto sperimentale. È ovvio che poi noi a un anno da oggi, quindi nel giugno del 2011, partiremo con la commercializzazione di massa dei veicoli. Una cosa che mi preme comprendere è se confrontiamo due auto, un'auto elettrica come quella che metterete nel mercato dal 2011 con un'auto tradizionale, cioè quanto costa, quant'è la differenza di costo in partenza tra le due auto? Che il costo sia esattamente allineato a quello di un'autovettura con motore termico a gasolio, quindi chi andrà in concessionaria potrà fare una scelta senza essere influenzato dal prezzo. Uno l'auto elettrica se la compra, però poi non ci può andare in giro perché non ci sono i punti di ricarica, e quindi diciamo che magari evita. Bisogna che il pubblico, ed in questo caso le amministrazioni comunali come quelle di Milano e Brescia si sono dimostrate molto sensibili, possano permettere l'installazione di una serie di colonnine. Ma dirò di più, c'è anche un discorso di installazione presso il proprio garage o presso il proprio posto auto, nella propria abitazione, del charging point per quanto riguarda il discorso di poterlo ricaricare comodamente a casa di notte, e quindi eventualmente anche su questo ci potrà essere un lavoro da parte delle compagnie elettriche per avere delle tariffe con l'autorizzazione dell'Authority per l'energia, delle tariffe estremamente convenienti, e quindi da questo punto di vista si apre completamente un nuovo scenario. Le autorità politiche locali e nazionali hanno cominciato a guardare al progetto con interesse e ora si pensa a una normativa nazionale, come ci racconta l'onorevole Ghiglia, PDL. Nello stesso tavolo ci sono anche deputati di sinistra, come l'onorevole Lulli, in quota PD. L'Italia è come sempre la prima a partire in quanto a innovazione, ma poi tra leggi, oggi, mancati finanziamenti e ostacoli vari, qualcosa si inceppa. Ne sa qualcosa Gaetano Di Gioia, considerato l'Enzo Ferrari delle auto elettriche. Dal 1987, con la sua Microvette, sviluppa e costruisce mezzi elettrici ed è il vero leader del settore. Oggi realizza più di 1000 auto elettriche l'anno. In passato, in Italia, rispetto agli altri stati europei, c'era una situazione abbastanza privilegiata per l'auto elettrica. Infatti la nostra azienda è cresciuta e sopravvissuta grazie al fatto che in Italia c'è una legge del 95 che prevedeva praticamente contributi a tutti gli enti pubblici o alle aziende private che svolgevano servizi di pubblica utilità per il ricambio della flotta, sostituendo veicoli tradizionali con veicoli elettrici. Questo ha permesso che la Microvette avesse in Italia un mercato abbastanza notevole, cosa che invece era meno eclatante negli altri paesi europei. Le do un dato: nel 2007 praticamente ancora l'80% del nostro fatturato era praticamente fatto in Italia e il 20% all'estero. Ecco, oggi invece la situazione si è un po' ribaltata. C'è molta più attenzione nei confronti dei veicoli elettrici e risorse disponibili negli altri paesi europei rispetto all'Italia. La legge di cui le parlavo purtroppo non ha più fondi e difficilmente verrà rifinanziata. Oggi l'80% della nostra produzione va all'estero e il 20% va in Italia. Ed è tutto per Italia in Controluce. Vi ricordo che potete iscriverci per segnalarci le vostre storie o commentare i servizi che sono andati in onda. Controluce@radio24.it. Ci sentiamo oggi alle 13.30. Buona giornata.